Il turismo nel 2011 vale complessivamente un volume d'affari in nero di 36 miliardi di euro, che significa 13,5 miliardi di euro di tasse non pagate, praticamente un quarto della manovra lacrime e sangue varata dal governo. A queste conclusioni è arrivato uno studio del Centro Studi Casa Ambiente e Territorio di Asso Edilizia, secondo cui il nero ammonta al 20% circa del fatturato complessivo del settore, che nel 2011 dovrebbe attestarsi intorno ai 185 miliardi di euro, pari al 12% del PIL. Cifra non molto diversa da quella degli anni precedenti, eccezion fatta per il 2009. Sull'entità dell'evasione fiscale, conclude Cescat, ci sono notevoli differenze tra macro aree del paese. Il nero, al nord, si aggira sul 20%, ma raggiunge il 35% nel sud e nelle isole. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.